L'idea di creare un emporio che è una locanda nasce intanto da un progetto europeo che, di cui Salospace fa parte, dal quale Salospace nasce. La nostra idea è che l'inclusione sociale si debba creare attraverso il lavoro e quindi la produzione di ricchezza genera inclusione sociale, lavoro e benessere sociale. La locanda nasce dal progetto iniziale, attualmente è ospitata in un container modulare molto, molto moderno e funzionale con ampi spazi all'aperto e al momento siamo aperti il giovedì sera e giovedì pomeriggio, ovviamente adesso c'è ancora il coprifuoco, giovedì pomeriggio dalle 17 alle 21, lo stesso il venerdì e il sabato mattina dalle 8:30 alle 14. Per il momento facciamo aperitivi e stuzzicheria in un contesto, come dicevi, molto versatile ma soprattutto aperto e pieno di verde. In futuro puntiamo ad aprire anche la sera con una ristorazione un po' più da cena, diciamo, ma sempre all'aperto. In futuro questa locanda sarà ospitata in una costruzione che verrà costruita a completamento del progetto. L'emporio invece è un'idea che nasce dall'obiettivo di portare la comunità che risiede in Salospace e che gravita attorno a Salospace a rifiuti zero, quindi è una locanda che vende prodotti sfusi provenienti dal territorio bolognese, anche ad esempio i detersivi, e appunto per ridurre l'impatto ambientale e non produrre rifiuti o comunque produrre il meno possibile. All'interno della locanda abbiamo sistemato anche un laboratorio delle trasformazioni urbane, perché una dei tratti connotanti Salospace è anche l'agricoltura urbana, quindi abbiamo fatto la scelta di creare tutta la filiera, quindi dall'ostaggio alla frutta che viene coltivata qua si trasforma poi nel laboratorio delle trasformazioni e viene venduta sia nel punto ristoro nella locanda che all'interno dell'emporio, quindi per creare un'economia circolare, appunto impresa sociale e benessere sociale. E abbiamo visto che avete lanciato anche un crowdfunding, e qual è l'obiettivo e come possiamo supportare? Abbiamo lanciato un crowdfunding sulla rete del dono, vi invito a visitare il nostro sito e di lì arrivare al link del crowdfunding, e appunto l'obiettivo è proprio quello di rafforzare sempre di più l'emporio dello sfuso, dotandoci di attrezzi, accessori che possano garantire la vendita dei prodotti sfusi in sicurezza, quindi dispenser, dosatori e quant'altro. Per esempio anche vorremmo acquistare anche un distributore d'acqua che faccia acqua fredda e acqua gassata da distribuire appunto sia alla comunità che ai degli abitanti, ma anche a chi viene a trovarci a Salospace, di modo che si limita la produzione di bottiglie di plastica e tutto quello che ne consegue. Quindi vi chiediamo di contribuire a questo risultato perché vorremmo appunto trasformare Salospace a rifiuti zero e vorremmo proporre al Comune di Bologna, che è il nostro partner, anzi è il nostro cogestore, vorremmo proporre al Comune di Bologna di iniziare qua una sperimentazione per provare a e commisurare la TARI, tassa sui rifiuti, sull'effettiva produzione del rifiuto. Quindi vorremmo partire intanto dalla produzione minore possibile di rifiuti per arrivare gradualmente appunto a una comunità a rifiuti zero che impegni il meno possibile l'amministrazione anche nello smaltimento dei rifiuti stessi. E invece i laboratori per i bambini che si terranno il sabato mattina, che cosa verrà proposto, se bisogna prenotarsi e gli orari? Allora, abbiamo due generi di laboratori che potrete trovare qui a Salospace. Abbiamo detto, abbiamo un'ampia parte ortiva che stiamo sempre di più espandendo e quindi abbiamo questi laboratori che iniziano alle 10:30, rivolti appunto ai bambini, sono laboratori gratuiti. Allo stesso tempo abbiamo anche laboratori teatrali oppure laboratori, diciamo, artistici che sono organizzati fronte al treno del ricomincio, questa grande struttura intera che piace tanto ai bambini, è un treno con dei tavoli, dei disegni, delle attrezzature per disegnare, per giocare, e che iniziano anche questi alle 10:30, quindi di solito si alternano. Un sabato mattina ci sono i laboratori agricoli, un'altra mattina ci possono essere i laboratori artistici. Sono ad accesso libero, offerta gratuita, sì, è consigliata ma non obbligatoria la prenotazione, potrete scriverci a info@saluspace.eu. Perfetto, grazie mille. Vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che rischio di essere stato anche troppo prolisso. La cosa migliore secondo me è venire a Saluspace, provare questa esperienza nell'agricoltura urbana, nella socialità, nell'inclusione sociale, nel benessere, un nuovo modo di vedere la città, una nuova centralità urbana.